sempre fatto io, un dipolo, una radio, giusto per fare due chiacchiere a livello europeo e farti sentire a livello locale, quello lo puoi fare. Diversamente non è che vai molto lontano, però ti ripeto, tu con l'esperienza capirai quali sono le cose valide e quelle che non servono a niente. Tutto qua. E al telefono là, Roberto. No, non puoi mettere l'apparecchio a 10 watt o 50 watt neanche, a chi non ti intendi, cioè ho quasi ne vinta di 90 litri, se arrivi in basso non ti basi in entrare, già è così. Infatti quando lo usava povero Salvatore, il mio, tutta manetta via, ma chi è in casa a 5 col 440 è arrivato al massimo, il mio pompava forte mico il 440. Saluti a tutti, mi sto ascoltando che sto cercando di tarare l'antenna. D'accordo, salve, siamo qua. Sì, ma è così, in effetti è così, come sta dicendo Claudio, è così, in effetti è così. Poi chiaramente, ripeto, l'esperienza, quello che conta è sempre l'esperienza, come stavamo dicendo inizialmente, quando abbiamo incominciato questo QSO, che lui si renderà conto di quello che vuole fare, allora si adeguerà e si attrezzerà per quello che vuole fare, certo che sì. Dipende da diverse cose, dipende dall'ubicazione delle stazioni che sente, dipende dallo skip, soprattutto dallo skip, se è lungo, se è corto, se è medio, tante cose sono per poter arrivare con un certo segnale anche ad una stazione, però si sa, siccome ha la possibilità di utilizzare quei 500 watt concessi dalla legge, lui si attrezza per quello e poi va avanti e poi saprà lui se aumentare ancora la potenza, quello sono cose che poi verrà lui e sarà lui responsabile di se stesso, non ci sono problemi, io la penso così, ma Roberto già è una persona assennata, non è certamente uno sprovveduto, già sa come comportarsi, già farà presto esperienza e sicuramente si adeguerà a ciò che vuole fare e che deve fare. Vai Claudio. Si conferma. Ripeto e ribadisco che ognuno fa quello che vuole, quello che può, quello che si, che secondo lui è giusto fare, tutto qua, però il mio pensiero rimane sempre quello, chi va piano va sano va lontano, io ho aspettato tantissimi anni perché non avevo nessuna intenzione di ampliare, di fare, però poi quando ho montato le direttive chiaramente mi sono accorto che le cose cambiano perché cambiano e poi niente, poi ho mollato, l'altra elementi l'ho venduta subito immediatamente perché era nuova, anche il rotore e tutto, però mi è rimasta la gabbia, il master, la direttiva 5 elementi, il dipolo multibanda, quelle sono tutte cose che ho già dato a Roberto, il commutatore della Meritron americano a 5 bande col selettore su, quello è una favola, quello è molto importante perché attacchi tutte le antenne su e poi c'hai un'unica calata che ti permette col controbox giù di giostrare e fare. Ce l'ha Roberto, c'ha tutto l'impianto, ve l'ho detto io, quindi non ci sono problemi. È una persona che merita, a me mi tiene molto in considerazione e quindi ho dato tutto a lui, non ci stanno problemi. Poi io sono qua, se ha bisogno di qualcosa, quelle poche cose che mi hanno insegnato le metto a sua disposizione. Poi lui è amico di quelli che hanno molta più esperienza di me, quindi si farà consigliare, si farà aiutare, insomma, farà. Rimane il fatto che sono contento che abbia la passione di entrare nel mondo amatoriale e poi si accorgerà se è una passione che le può rimanere o che non gli è fatto niente. Tutto qua, va bene, cambiamo discorso perché già questa cosa sta diventando troppo lunga. Stavo dicendo una cosa, mi sono dimenticato, vabbè, non me la metto più, riprendi Natalia. È venuta gente, vi devo lasciare, dai, ci sentiamo alle prossime, QRT per me. Ok, d'accordo, Natalia, ci sentiamo, dai. Magari ci sentiamo stasera, se coincide, ciao, salutoni. Saluti in casa anche tra l'altro. l'ho appena sentita sottofondo. Bene, è chiaro, ma è così, nella vita bisogna anche darsi una mano, no? Stavo pensando, quanto è lungo quel diplomo che gli hai dato, che fa 5 bande, in lunghezza, quando è steso completamente, quanti metri può essere lungo? 15 metri per braccio, 30 metri. 30 metri sono tanti, non so se può farlo, ma tutto direttamente in orizzontale, sicuramente farà delle deviazioni, perché non credo che abbia 30 metri di spazio sul tetto per poterlo metterlo completamente allungato, disteso. Tu cosa pensi qua? No, ce li ha Roberto, ce li ha, beh c'è stato da me, io ho messo un palo in una punta e un palo nell'altra e l'ho steso a progressione orizzontale, ci sta, tranquillo che ci sta, è lungo il terrazzo Roberto, è lungo, si può mettere anche in diagonale, non giusto, dritto in orizzontale, si può appena girare per allungare appena, non è un problema, no, ci sta, c'è un terrazzo Roberto enorme, perché prende due palazzi praticamente, quindi congiunge il terrazzo in unico capitolo. Va bene, già ce lo facciamo stare. Sì, certo che sì, in qualche maniera si piazza, cioè questo non ci sono dubbi. No, ma comunque ci sono anche tante possibilità. Una volta, discorrendo con un amico di Urbia, mi aveva detto che lui ce l'aveva in un terrazzo messo a squadra, perché il terrazzo non era abbastanza lungo per poter estendere direttamente tutto in una direzione il polo. Addirittura ce l'aveva in un terrazzo, in un poggiolo, se ricordo bene, addirittura, ti puoi immaginare che faceva squadra e lui ce l'aveva installato lì e faceva collegamenti a lunghissima distanza, non a lunga, ma addirittura a lunghissima distanza. E dunque se l'ha detto, evidentemente, vabbè, più una posizione può essere diversa da un'altra, anche quello bisogna considerare, ci sono mille cose da tenere in considerazione. Vai qua. Ma questo non è un dipolo, si può mettere a ruote invertite, è un dipolo ragno, praticamente c'ha le barre verticali in tubo di plastica, capito? Non è un dipolo fatto così, Natalino già lo conosce. Quindi non va messo a convertita, va messo in orizzontale, dritto, e Marco ce l'ha da un traliccio all'altro, solo che sulla monobanda è fortissimo e lavora alla grande, capito? Perciò, no, ma lì già ci sta, io voglio che ci sta, ho già visto il posto, già ci sta, va bene. Vabbè, si è rientrato? No, vabbè, Natalino è uscito, Saverio, esci da fuori. Non si offende, è una guida attaccata all'antenna della macchina, andava bene, perché la sta toccando, cosa è successo? Ma quello che dico io, va bene, con l'antenna va bene, non si deve mettere altri problemi. Secondo me se la può tenere quella, a meno che più in là non si piazza un'antenna autocostruita, come dice lui, perché dice che se l'aveva già autocostruita, se la cosa bene, aveva due distrazionari, mi sembra, non lo so di preciso, se la cosa bene, se la piazza lo stesso nella stessa posizione dove ha messo quell'antenna, perché a me mi ha mandato il video, mi ha mandato di come ce l'ha installata, dalla ringhiera ha messo un braccio di una certa lunghezza e ci ha messo l'antenna installata lì, proprio nella punta di questo braccio, per cui lì nella stessa posizione può mettere anche un'antenna tipo canna da pesca, come appunto si è costruito, perciò dovrebbe risolvere anche lui questo problema. Purtroppo è così, quando non ci sono possibilità sul tetto è un po' difficile l'installazione di questo tipo di antenne, perché sono antenne molto lunghe e soprattutto secondo il tipo di antenne anche molto voluminose, come può essere dentro una manta, ma non è facile, non è per tutti avere la possibilità di installare un'antenna a dovere sul tetto. La cosa migliore è avere un tetto suo suo personale senza dare conto a nessuno, e allora puoi salirci e fare quello che ti pare ti piace, come ad esempio tu, come io, eccetera eccetera. Sì, ma è così. Beh, io qua c'ho spazio da vendere, ma no, non ho nessuna intenzione né di montare filari né di montare nessuna antenna, va bene questa che c'è, basta. C'è quella piccolina delle V e delle U, quindi due sono più che sufficienti, basta con i giochi, anche perché non voglio poliziare la mia figlia che deve essere cose in mezzo ai piedi, va bene così, ne ascolto, io ascolto solo, in HF io sono anni che ascolto, sempre in ascolto, mi piace ascoltare soprattutto i 40, gli 80, in VHF invece sono attivo l'antenna e quindi vado anche in trasmissione, però altre cose no, rimango così, va bene, che ora si è fatta? Mezzogiorno, che ora è? 1:20, dai Giulio, io ti saluto, salutami a Roberto, mi devo spostare in cucina per una mano a mia moglie, se ci siete ci aggiorniamo dopo, ok? Ok, va, d'accordo, dai, ci sentiamo stasera eventualmente, così oggi niente partite, domani ce l'abbiamo, la partita dell'Italia, però va bene così. Non so se tu hai visto ieri quella specie di allenamento della Francia, ha vinto 8-0 con la Kazakistan, così, ma dimmi tu se quella può essere una nazione da presentarsi a fare mondiali. No, non è possibile, queste squadre così non si dovrebbero nemmeno essere. 8-0, dai, io voglio una cosa assurda. Va bene, qua, ci sentiamo stasera, dai, buon pranzo e buona serata, ciao, ci sentiamo, ciao. Ciao Giulio, ma l'Italia domani deve vincere, perché se non vince sono cacchi suoi. Mi pare sia lunedì, no? La partita. Sì, la partita è lunedì domani, per cui deve sì vincere, perché sennò la storia incomincia a essere un pochino critica. Deve vincere e soprattutto fare qualche gol in più, perché è importante anche il numero delle reti che uno segna, anche quello fa parte del regolamento, perciò deve darsi da fare, speriamo bene, se non pazienza, cosa si può fare. Comunque loro sono convinti di riuscire a qualificarsi e andare a fare mondiale, speriamo bene, va bene, dai, ok, ciao, buon pranzo, ci sentiamo le prossime, ciao. Ciao, ciao Giulio, vinca il migliore, a stasera, ciao. Chi è che chiude, io sono sempre fuori cercando di abbassare, ma qua, Ciao Mirko, sono in chiusura che devo andare a preparare il pranzo, un abbraccio, buona domenica anche a te. Ciao Mirko, grazie per essere entrato a salutare, avanti Mirko, un paio di passaggi che posso fare. Niente microfono, vabbè, dai, tu mi hai detto dove c'era una cassetta, dove c'erano microfoni, dove c'erano cose, mi potevano interessare anche a me. Va bene così, dai, intanto io l'MC60 l'ho comprato, dovrebbe arrivare domani. È partito venerdì, quindi dovrebbe arrivare domani. Perciò diciamo che in linea di massima non è che mi serva altra roba, ho anche la Donis, ho anche altri MC50, quindi ce li ho. Era giusto per abbinare un microfono al 757. Va bene, dai, ti saluto Mirko, buona domenica, buon tutto, se coincide ci aggiorniamo stasera. Ti lascio in compagnia di Giulio che ti saluta e poi anche lui mi pare di sia in chiusura, non lo so, vai Giulio per Mirko. Sì, anch'io sono in chiusura, certo, e beh, è ora di chiudere. Ciao Mirko, grazie per essere entrato a salutare, dai, ci sentiamo stasera se coincide, speriamo bene che ci sia poco QRM, se no sarà un po' difficoltoso per me ascoltare. Ciao ancora Mirko, salutoni, ascolto il tuo finalino e poi chiudo, vai. Ok Mirko, d'accordo, ci sentiamo stasera, certo, figurati, un dovere ascoltarti, ci mancherebbe altro. So che siamo anche colleghi di mestiere, avevo saputo anche quello, è solo che io adesso sono in pensione, mentre invece tu stai continuando, vero? Io sono rientrato, scusate. Ok, vabbè, dai, ti lascio con Mirko di Alghero, ti lascio Roberto. Sì, Mirko, ci sentiamo, vai. Stasera io chiudo, Ciao Mirko, allora grazie ancora per essere entrato a salutare. Ciao Roberto, io vado giù, anche perché mi hanno fatto un piccolo squillo poc'anzi, e poi voglio tentare anche di contattare Luca se ci riesco. Vabbè, ciao anche Savilio se sia ancora all'ascolto. Riprende Roberto, ti lascio con Mirko, ciao, avanti. Sì, ciao Mirko, buongiorno, poi chi c'è, Saverio pure? Sì, positivo, dai, saluto a Claudio che è passato in Corretti, sta cucinando, e anche a te Giulio, buon pranzo, buon Corretti. Volevo capire se mi ascoltava Mirko a me giù all'Alghero, buongiorno, ben ascoltato. Ok, contraccambio, segnale tuo 5 a picchi positivi, arrivi fino a quasi 7, e la radio è discreta, dai. Va benissimo, avanti, quindi arrivo anche all'Alghero, avanti la macchina, Roberto. Ah, sei in macchina, sarei infatti di Santiago 7, Alghero 9, qua ho detto, come è così basso, pensavo avessi fatto qualche, cioè ci fosse stato qualche problema tecnico, dai. Quindi sei in macchina, stai arrivando abbastanza bene, dove senti, dove ti trovi? Sto usando l'antenino della macchina, però sta facendo i capricci questo antenino, non voglio scendere in stazione aria. Cioè, adesso ti mando una foto su WhatsApp, guarda la carica, entra una spira dell'avvolgimento della carica dell'antenino, va a entrare dentro al coso, come si chiama? L'isolatore, diciamo, entra dentro, sono due pezzi che avvitano, una spira va a finire dentro, non capisco se nasce così o c'è qualche problema. Sì, a cappa. Ok, aspettiamo un attimino il bianco, vediamo se nel frattempo è entrato qualcuno, perché io mi sono assentato per qualche minuto. Vediamo 10 che c'è ancora avanti. Nulla, vai tu Mirko di nuovo. Allora, si arrivano il 30 di settembre, è stata una cosa, una persona mi ha convinto, dai, non facciamo il nome. Se è in ascolto già si rende conto chi è. E poi piano piano ho detto, dai, proviamo un pochettino, è andata bene. Non è semplicissima, bisogna studiare, lo devo dire. Non è come uno può immaginarsi una cosettina così, due passi, bisogna studiare. Forse a me mi è andata anche bene, non lo so, le abbiamo fatto le domande che sapevo, però è andata abbastanza bene, dai, le ho indovinate tutte le domande, per cui non posso dire niente, devo essere contento di me stesso, diciamo, che ho preso questa famosa, questo documento, la chiamiamolo documento. Ok, e la prossima sessione le domande vanno fatte sempre entro il 30 aprile o il 30 settembre, per cui se riesci a organizzarti entro il 30 aprile, ci avrai, normalmente si fanno verso maggio le sessioni, diciamo, primaverili, sempre che ci siano i numeri di persone per farla, perché se ci sono due persone non credo che la facciano e la rinviano a quella successiva, come era successo anni fa. Comunque, se sei appassionato te la consiglio, dai, poi se vuoi qualche dritta a livello di, parliamo, non dico di informazioni tecniche che non sono all'altezza, magari per quel poco che posso dire, però parliamo di informazioni dove studiare, dove fare quiz, dove informarti, quello ti posso dare tante cose, quello sono stato abbastanza informato, dai. Poi su internet si trova di tutto di più. Di nuovo a te Mirko, il mic. Tu stai parlando del 757 GX2 della IAESU, così dice. Sì, no, va bene, per iniziare l'antagonista del 140 della Kenwood, li ha avuti tutti e due, diciamo, come primo passo va bene, se riprende la patente sono, diciamo, il primo gradino, non voglio fare presuntuoso, io non è che ci abbia niente di importante, però sono apparecchi qualità prezzo, vanno, sono dei muletti, diciamo, vanno più che bene, soprattutto in banda laterale, quello lì della IAESU va bene, diciamo, per quello, per la mia piccola esperienza di coso, li ho avuti tutti e due e non posso dire niente. Il 140 magari è un po' più facile da usare, anche se è scomodo per certe cose, diciamo, ma si equivalgono come apparecchi. Il prezzo che l'hai pagato è regalato, perché se la parete è efficiente, stanno vendendo i baracchini di una 48 a oltre 400 euro, perché c'hanno le modifiche dei modulatori, ecco, eccetera eccetera. A quel punto uno pirata in un modo e pirata in un altro modo, tanto vale che prende uno di quelli, non voglio insegnare a delinquere, però molte volte almeno c'è una radio che dà meno problemi di disturbi rispetto a uno di quelli, perché quelli sono dei generatori di disturbi, quegli apparati lì vanno bene ai camionisti che lo usano in movimento, non c'è problema per farsi sentire, ma uso fisso, stazione fissa, io sono sempre stato contrario a quei tipi di apparecchi. Ok, funziona, che problemi c'ha, perché mi ha detto in trasmissione che problema c'è. Allora, io ti dico una cosa, per piccola esperienza, tu ne saprai più di me, non ti fidare troppo dello Smith, perché se tu riesci ad ascoltare quella persona, quella stazione, l'ascolti e il segnale è 3 e magari nell'altra parete lo ascolti 9 e lo prendi nello stesso modo, non ti fidare troppo dello Smith, soprattutto su quel 757 ha avuto dei problemi di cosa, ti dico per esperienza di segnale, quello mio era in quelle condizioni lì, poi è stato sistemato, poi passato di mano, l'ho tenuto poco perché sinceramente avevo altre cose che mi piacevano un po' più comode, è stato fatto con uno scambio, per cui lo Smith non ti fidare troppo, come la stessa cosa ci sono apparati che l'S9 lo trovi a un certo livello di segnale d'ingresso e l'altro per avere l'S9 ne basta di meno, perché ci sono quelli che ne bastano 300 microvolt per avere un S9 e altri ne vogliono 400 o 500, dipende dagli apparati, me ne accorgo da stessi apparati di stesse marche, uno è tarato in un modo e un altro, per cui se tu riesci ad ascoltarlo decentemente confrontato con un altro che magari ha un'indicazione più alta, non ti preoccupare di quello, è solo problema di Smith e non di segnale. Poi la trasmissione la vedi tu, te ne accorgi come magari ti fai ascoltare da un'altra parte e vedi un po' come ti ascoltano, se non altri problemi, se non si sposta di frequenza eccetera eccetera, poi c'è gli strumenti per vederlo, per cui non ti devo dire niente di più. Marco? Avanti il break. Ciao Roberto, buonasera, anzi buongiorno, e ciao anche a Mirko di Alghero. Ti ho sentito, sono entrato solo per tanto per farti gli auguri e che ho saputo l'evento, è buono, e salutoni anche a Mirko, non so se lui d'Alghero mi ascolta, vediamo un po'. Avanti a te Roberto, puoi far girare. Sì, ciao, ben sentito, ascolto perfettamente, hai fatto forse qualche cosa alla radio perché sei molto più squillante, il segnale è sempre quello, però la radio la sento un po' più squillante. Mirko, l'hai ascoltato, l'amico a Franco, l'hai ascoltato Franco? Sì, non mi ero accorto che avevo mollato. Ciao Mirko, comunque ben ascoltato, tu sei con un segnale di 4-5 e la radio, diciamo una radio di 3-4, vai, comunque è comprensibile al 100%. No, va bene, quella lì, anche se è fatta in casa, se è fatta bene, va benissimo. Avanti a te Roberto. No, ti ascolto più squillante, ma hai cambiato microfono o hai fatto qualcosa, Fra? No, questo è il K con la MC60. No, ti ascolto, cioè ti ascoltavo bene anche prima, sei 9-10 qua, però ti sento più squillante di radio, strano, ho l'impressione mia. Forse ci avevo più pulite stamattina le corde vocali, dai. Ah, così. Il vento di maestra ha pulito le onde elettromagnetiche, per cui arrivi anche meglio. No, sto scherzando naturalmente, no, ti ascolto perfettamente. Dammi anche a me un rapporto, visto che ci sei. Tu sei tra l'8 e il 9, la radio perfetta 5. Ok. Va bene, Alghero quanto ti arriva a te? Dai 4-5 modulati. Allora io, vabbè, per Alghero qua sono molto aperto, lui mi arriva a 9, radio 5. Ok, di nuovo a te Mirko il mic. A te trovi c'è un ottimo marchio, cos'è? A tubo cartodico CRT, a cosa? A LCD? Cavolo, una bella apparecchio. Tutto per 180 euro. Ciao, l'hai fatto un affare, poi hai preso un apparato, diciamo, di un certo livello, parliamo superiore sicuramente a un baracchino, e mi stai dicendo che è anche funzionante. Il microfono ti ha dato il suo da palmo? L'importante è che sia cablato per quel tipo di radio, se no fai danni, stai molto attento. Ma questo è uno della zona tua o di Sassari, che ti ha dato questa roba? Sono contento per te, hai fatto un ottimo, più che ottimo affare. Ok, di nuovo a te Franco il mic. Io riprendo, perché a parte sono entrato per salutarvi e più per farti gli auguri a te, oh Roberto, perché avevo saputo quell'evento. Niente, io vi lascio perché mi stanno chiamando a mangiare, e al limite ci sentiamo più tardi. Ciao Mirko, ben ascoltato, anche a te Roberto, riprendi Roberto e fai girare, io devo mollare perché mi stanno chiamando, ok? Ciao Roberto. Ti ringrazio per gli auguri, grazie di cuore, e anch'io tra poco sto aspettando che mi chiamano, quando vuoi Franco, sempre è un piacere ascoltarti, vai Mirko per Franco. Io rimango qua in QRX, vediamo se nel frattempo è entrato qualcuno, qualche minuto, credo che mi chiamino tra poco. Ok, ci sentiamo eventualmente nel pomeriggio se siete disponibili e se coincidono i tempi soprattutto. Ok, ciao Mirko, buon pranzo, buon tutto, e vediamo di salutare anche qualche amico qua che vuole entrare, avanti chi vuole entrare, se no rimango in ascolto finché non mi chiamano. Adesso ci voleva anche questa, sono andata della Gemalter, l'ho presa troppo dal centro, si è troncata in due. Cos'hai detto? Ci voleva anche questa, già non riesco a accordare anche il Nino, adesso sono andata a prendere la Gemalter. sentiamo, è 8 qua, però ti sento un po' disturbato perché c'ho dei disturbi, ti porti appresso un disturbo. Ti stai spostando, cosa hai detto? Devi andare a casa, non ho capito. Mi si è troncata la Game Master, l'ho presa dal centro e il peso me l'ha troncata in due. Cacchio, addirittura, mi dispiace. Vabbè, una l'ha detto di calare la pesca, bisogna cambiare. Dai, sono sempre in ascolto. Sì, ok. Ora? Roberto, ci sei ancora? Dimmi sapere. Roberto? Dimmi sapere. Passo rientrato. Stavo dicendo, ma aspetta che ti mando una foto della carica dell'antennino e mi dici se deve andare in mezzo. La spirale di centro entra in mezzo ai due pezzi di... non so se è teflon, batilite, l'isolatore, diciamo. Una spirale entra in mezzo, è normale? Se la carica, non ho capito, se la spirale deve entrare, scusa. La spirale, la cosa del rame, l'avvolgimento del rame, la carica dell'antenna, cioè è divisa in due pezzi l'antenna, c'ha due pezzi dentro la carica, ci sono due pezzi di coso, di tipo teflon, isolatore. Una spirale va a finire dentro e mezzo, è normale o la devo tirare fuori? Aspetta, mando la foto. Ah, sto scendendo per il mio cellulare, me l'ho dimenticato in macchina. Saverio, ci sei? Un attimo, sto scendendo per il mio cellulare, un secondo ci metto, così ti mando la foto. No, perché mi hanno chiamato a mangiare, mandami la foto, poi magari ci sentiamo per messaggio, eh? Ok, va bene, buon pranzo, Roberto. Grazie, ciao. E piove. No, te la mando anche a te questa foto, che non mi convince, questa carica, c'è una spirale che entra in mezzo e due pezzi che avvicano. Ma mi sembra non è normale. Sì, ma se la mandi a me il telefono non prende, cioè vede uscire fuori, sta piovendo a dirotto. Provo a mandarla, vorrei se riesco ad aprirla, ma sarà molto difficile. Spero, sto recuperando il cellulare in macchina, perché ieri erano a due, adesso oggi sono addirittura più alte. Secondo me non va così, quella spirale non, dalla carica non deve entrare in mezzo a quei due pezzi, deve rimanere fuori. Aspetta un attimo. Provo a mandarmi la foto se riesco ad aprirla, ma ti ripeto, sarà molto difficile. Chi è avanti? Buongiorno Carlo. Buongiorno Carlo, mi ha ascoltato. E io sono in macchina, diretto verso Alghera. Ok, che posizione ti trovi ora? Via Savoia. Positivo, là, sei ancora in città. È positivo, sono uscito dopo. Devo prendere il servizio alle 2. Ok. Sì, Monte Rosello Alto qua, Monte Rosello Alto, cercando di accordare un'antenna. Le stazionali alte. Sì, un pochettino. Non ho trovato la chiavettina, ma c'è un qualcosa che non mi quadra nell'avvolgimento della carica, che c'è una spirale che va a finire dentro, in mezzo ai due pezzi di isolatore che avvitano uno sull'altro, e una spirale va a finire dentro di lì in mezzo, ma non mi sembra normale. Adesso faccio una foto e la mando all'amico che è qua in ascolto. Sicuramente allora se o magari rotta più vicina che teneva ferma la spirale e quindi magari sta facendo contatto. Dicevo magari il servizio e quindi adesso si fa contatto. Vediamo un po' se c'è qualcuno all'ascolto. Hola. Attenzione Carlo in direzione Alghero. Se mi ascolti ancora, cambio. Carlo che era in direzione di Alghero. Mi ascolti? Andava fuori con la spirale, deve essere tutta lineare, bella attorcigliata. chiamata, però non trovo la chiavetta così piccola per zippare lo stilo e c'ho le stazionali alte. Sì, io già ce l'ho qua la chiavetta. Ce l'ho proprio veramente Luca. La chiavetta fine fine. Non so, vedi tu. È un'antenna che io non conosco, non l'ho mai vista. Una Magnum della REM, ce l'ho tanti anni, ce l'ho. C'è scritto Magnum 27 MHz sopra nella plastica della bobina. Non lo so. Prova a dire a Luca a vedere, mi pare che lui già ce l'abbia quella chiavettina lì, capito? Io non so come fartela avere. Ho 7 milioni di chiavi, torse, chiavi a brugola, quella lì non la trovo. Non l'ho trovata, ne ho smontato tutto quanto gli attrezzi che ho. Dovrebbe essere una 2 o una 2 e mezzo, roba del genere. Un'antenna, una chiavetta a brugola di quelle piccoline, fine fine. Di solito le vanno in dotazione alle antenne della macchina, capito? Proprio per fare le regolazioni. Io dovrei averla da qualche parte, però non lo so. Va bene, vado a mangiare, sentiamo più tardi. Intanto ho visto la foto, ti ho chiamato qua, che il telefono non prende, uscire fuori, sta diluviando. Dai, ci sentiamo stasera, salve, ciao. Eia, ciao Claudio, buon pranzo. Perché poi ho guardato lo stilo ed è tutto vento, è molto vento, capito? Quindi regolazione ce n'è a salire, è quasi a zero, tutto giù. Le stazionarie sono alte, le devo abbassare perché mi ricordo che questa antenna viaggiava anche a 1,3. Magari non c'ha neanche molta massa. Ho visto la l'hai attaccata, non so se è attaccata bene, attaccata male, così nelle foto non si vede molto bene. Però è sempre meglio fare qualche piastra, qualcosa che le dia più piano di massa, capito? Linea poco. Lo stilo devi cercare di tirarlo fuori, sennò è un casino. Va bene, dai, ci aggiorniamo, ciao. Ciao Claudio, buon pranzo, dai. Però comunque nella radio, quando io muoio mi dà sempre i picchi positivi. Però nello strumentino che mi ha prestato Roberto le stazionarie sono alte. Poi come se non bastasse, vado a prendere la Game Master, la prendo al centro e mi si è truccata in due. Buonanotte. È caduto poi fino proprio. Vabbè, già la posso riparare, è l'elemento di centro. Poi lo cambio, che già ne ho altre canne da pesca, canne fisse in garage. Guardo un po', se lo trovo quell'elemento, se no già glielo accrucchio, diciamo. Mettere un tubo di quelli di impianto elettrico, cazzo, che resistono di più, sai? Di quelli in PVC, come si chiama, quello fine fine, canali di impianto elettrico, ma canale di impianto elettrico della stessa misura le fai. Sì, e poi la fascetta, si conferma, no, già la recupero, non è quello il problema. Il discorso che non vanno bene né una né l'altra, o perché sono troppo vicino al ferro, perché poi le cammina, su al piano di sopra ci sono le antenne della televisione della signora, quindi magari risulta troppo vicino alle antenne sue, ed è per quello che mi dà problemi. Non è in campo aperto, capito? Io dovrei prenderla quell'antenna, scendermela in campagna, da mio suocero, e provarla di lì, testarla di lì, in campo aperto, libera, senza nessun ostacolo davanti. Infatti, puoi provare così anche. Va bene, dai, ci sentiamo stasera, ok, che vado a pranzo, ciao. Va bene, ciao Claudio, buon pranzo anche a te, ci sentiamo le prossime. Chi è che fischia? Avanti. Chi è che voleva entrare? Avanti. Chi c'è avanti? Io. Chi sei? Io non lo conosco io. Che c'è? No, Genius, no, aspetta, siccome ha mandato un messaggio sul video, ma non mi pare sul video. No, sono io. Dimmi una cosa, tu che sei in campo marinaio, ci sono state novità per il discorso del VHF, me l'ha chiesto un amico, VHF tenerlo in barca, diciamo, il portatile, perché prima si faceva una domandina, un contributo di pare 10 euro. Quanto so io, nessuna normativa nuova. Dove andare in capitaneria e dire che è in possesso di una barca, è in possesso del VHF portatile, insomma. Perché ti lasciavano una specie di patentino, una licenza, una cosa del genere. Io l'avevo fatto anni fa, però non mi ricordo come avevo fatto, me l'ha chiesto un amico che lui non sapeva che ci voleva oltre le 6 miglia, siccome quando lui è di Genova dice escono abbastanza anche 10 miglia fuori, e però 10 miglia si allentano dal golfo, perché vedono la terra, guarda che dopo le 6 miglia è obbligatorio avere VHF, no non è così, guarda che dopo... E infatti mi ha detto allora dammi tutte le informazioni, ho detto aspetta che chiedo a qualche amico. È obbligatorio, Alberto, è obbligatorio. Per l'imbarcazione è obbligatorio. Assolutamente, e poi ci vuole anche l'autoconfiabile, le rotazioni maggiorate, eccetera. E certo, ci vuole tutte le rotazioni di bordo. Sì, oltre a quelle che ci vogliono di norma, entro le 3 miglia, entro le 6 scusa, perché c'è entro le 3, entro le 6 e poi oltre le 6 e poi senza nessuna limitazione, di lì vabbè a quel punto deve avere carte nautiche eccetera eccetera, barometro eccetera eccetera, e localizzatore di posizione. Ma si sta guardando, guarda che non è così, guarda che non è così. Ecco scandaglio, insomma. E poi questo è uno che si avventura, ha detto, guarda già c'è il cellulare, ti ho fidato di tutto il cellulare. No, non è così, non è così. Guarda, io il mare l'ho sempre rispettato, che c'è in terra di fermi, chiami autostop e va a prendere, ma il mare non era mai stessa cosa. Al mare bisogna da lei perché non ho mai preso mare, come dico io. Ma oggi ho lavorato, Luigi? Sì, stamattina presto. Com'è il mare, è brutto? No, stamattina era una calcola, adesso non so se si sia increspato. Ma vai il biliardo stamattina? Un vedo poco. Adesso sono uscito un attimino a prendere una cosa in officina per tagliarmi un pezzo di cosa, mi sto facendo una staffa. Sono sceso un attimo in officina, sta a pioggia di laina leggera. Hai già pranzato tu? Sì, anche perché devo andare a lavoro. Porra, è la cliente. Entro alle 7 e esco alle 8 e mezzo di domani mattina. Cacchio, ancora rido, E riposo niente. Un attimino. Come? Rientrato. Vieni, sono... No, niente, rientrato. A posto? Vabbè, non trovo la chiavetta 2 e mezzo per regolare lo zio. Ma come stai uscendo con l'antenna così tu da casa? Compagno di sera, beh. Cioè, Eugenio si è allontanato un attimino, ha detto un attimo. Ho acceso adesso, pensavo che fossi tu, perché volevo darti la risposta, ma il coso, le spine tu non sono interrotte, cioè le hai unite, se le hai tagliate le hai unite, cosa hai fatto? No, non le ho tagliate, una, siccome è divisa in due pezzi quella carica, cioè due pezzi di isolante. Come andavi a stringerla, a chiuderla, una spira, se ne andava fine dentro, ma non era normale, adesso io sono riuscito a allargare e chiudere bene, stringere e mettere tutte le spire in sequenza, capito? Andare, però le stazioni ce le ho alte perché devo regolare lo filo. No, perché le spire sono fondamentali, sia lo spessore del cavo, le distanze, il numero, eccetera, eccetera. Di lì se c'hai quegli stick di colla a caldo, li conosci quelli affari che ti buttano la colla a caldo, gliele butti sopra e rimangono ferme. Sì, no, ma è apposta, se è ferma, sono messi, è messa bene, la bobina vuole così, no? L'ho guardata, è impossibile che una non vada a finire dentro, perché quel pezzo deve avvittare, quindi avvittato a fine corsa, le spine sono tutte quante in sequenza, avesse bene. Però il discorso sono sempre alte perché ho 7 milioni di chiavi e mi manca proprio quella lì, che dovrebbe essere una 2, una 2 e mezzo, se non l'ho trovata, quindi prima volte è così, dopo è passato i corti anche. Comunque sei quasi 9 qua, il segnale. Vabbè, ma è basso mi roba. È basso, dovrei arrivare più forte da parte. Sì, penso di sì, quello è probabile. Vabbè, tu c'è una 5 ottavi, ce l'hai sul tetto e stai arrivando 9 più 20. 9 più 20, per te. 9 e 20 arrivo, vuol dire che sta irradiando. Sì, vabbè, la radio super 5, va benissimo. Eugenio, da dove modulava? Ricordami, Muros. No, Eugenio era portatore, Muros e Claudio che era Rogeritro e il padre Capri, Gianni Capri. Ah sì, positivo. Sì, Eugenio era portatore, si arriva bene lo stesso. Sono qua, ragazzi, un attimino, stavo finendo di fare una cosa. Dimmi, Eugenio parte da una portante multa di Santiago 8 e arrivi a picchi positivi fino a 9+10. E dove? Chi sei che non ti ho riconosciuto? Buongiorno Eugenio, San Vito qua, Monterosello. Santiago 8, quando non stai parlando, quando muro lì arrivi quasi a 9:10. Ehi, mi voglio ricordare un po' la modulazione che non ci sentiamo spesso. Buonasera, è meglio così, però tu a me mi arrivi in basso, come mai? Lo so, c'ho perché il tiro di antennino, un antennino del piffaro. Ehi, già miglioriamo in questi giorni, dai. In questi giorni miglioriamo, come mi chiama il tornitore a ritirare l'antenna, poi vediamo un po' se spinge quella lì. Ok, meglio così. Un attimino, riprendo tra un po', ragazzi, sto facendo, devo finire una cosa qua. Un attimino. Ehi, a Saverio che è andato a casa, spiccheggia forte, da lì in alto. Ho visto la foto, Saverio che hai mandato, cacchio, tu domini tutto da lì. Aspetta, c'ho tutto la Sinara, tutto Sintino, tutto aperto, anche verso Alghero, tutto. No, già sono libero, cioè, guarda, salgo sul tetto, sono alla grande. Però non ho voglia di stare lì a chiedere, a fare cose. Prima momento viaggio così, poi vedremo, dai. Ascolta un attimo, Robert, ti mando una foto e ti faccio vedere l'acquisto dell'ultima ora che ho fatto. Me l'ho spedito ieri, mi dovrebbe arrivare intorno a giovedì. E io dai, sono qua. Se torna al coso, l'ha preso lì. Torna il pallino, via, San Vito. Ah, bravo. Ti sei di nuovo riappassionato. No, vabbè, non ho mai perso la passione, che un po' di stand-by, sono ero già quasi un paio di anni, fermo. Aspetta un attimino, sto cercando la foto, te la mando subito. Mi, roba, te l'ho inviata. Questo giocattolino per me già va bene. Ah, questo è un giocattolino che scalda, dai. Giusto un aiutino, là, colpo di mano. Eia, poi quando devi fare il salto fallo nell'altro modo, un po' più evoluto, mi hai capito? Ci trovano apparati più decenti e costano adesso anche abbastanza poco. Ho già d'occhiata qualcosa. Già me lo vorrei prendere, sempre me l'ho voluto prendere, dopo me lo prenderò. Anche 140 va bene. E appunto con i prezzi che paga adesso questi cacchio di cose erano 48 modificati, sparano cifre da paura. Tanto, uno è l'offio e l'altro lo stesso, a quel punto ti prende qualcosa di meglio. Sì, e poi non c'è buona la massa. È utile, sì, c'hanno un sacco di modulazione e cos'è, però alla fine della fiera, se c'è un vicino, tu non parli più con nessuno. Perché se è un vicino è in un altro canale, io a volte non ci parlo più. Capito, non se va, non vale, a me non, proprio non piace, mi 48 sinceramente non è un apparecchio, non mi piace, prende colpi da tutte le parti, non è un apparecchio che puoi mettere in casa, lo puoi usare giusto in BM, in camion, capito, perché io ho provato così degli apparecchi tipo il 48 e vai a casa da mamma, prendevo schiaffi da tutte le parti, col president non penso proprio. Già è poco il presidente. No, il presidente è un'altra categoria di apparato. E l'ARA 48 c'ha di bello, lo sai che cosa? C'ha una bella modulazione, gli metti un qualunque microfono e funziona. La ricezione è una grande cagata, rumoroso, poi se riattacchi qualcosa è tutto fuori frequenza, cioè va armoniche, spurie, ne tira poca fuori di mondezza, lasciamo perdere. Allora il presidente è già qualcosa di più evoluto, è un aggregamento tra l'HF e l'ARA 48 come l'ultimo sacco dei baracchini, dai, diciamo, parliamo di baracchini normali senza arrivare a cose particolari. Però è sempre un bel apparato perché se si ha bene di radio e soprattutto riceve bene. Certo, si conferma. Allora, poi proprio di lì al limite con il professionale c'è l'altro presidente, il fratello di questo, che è un semi professionale, come si chiama? Ricordami il nome, c'ho sulla punta della lingua. Il presidente c'era del Lincoln, Herbert, ce ne sono almeno 6 o 7 di coso, ce n'è uno bello coso, come si chiama? Gianfranco, che è una bomba quello lì, funziona da tutte le parti e ascolta benissimo tutto. Il Lincoln 2 mi sembra che sia, Lincoln 2. Perché c'è frequentivo e tutto quanto, è più voluto di questo è più vecchio, è più adattato. E quello è un bel apparecchio, Sì, sono costruiti senza economie, poi non sono troppo macchinosi. A me l'hanno parlato, io ce l'ho nuovo, fiammante, me l'hanno regalato il primo baracchino, a parte il portatino, il primo baracchino che ho avuto è stato l'hanno parlato con la scatola e tutto. L'ha tenuto una settimana in macchina questo qua rappresentante, perché all'epoca ti avvisavano i camionisti, stai attento, c'è il posto di blocco, c'è quello, eccetera eccetera, l'aveva preso, dice l'ha tenuto una settimana e me l'ha regalato, ma è nuovo, però a me non piace perché c'ha quel cazzo di cambio canali, tutte le cose, lo smitter che manco si vede, è un giocattolino, c'è molto di meglio. Mi dirai che alla 48 trovi tutto, qualunque pezzo ti si rompe lo fai, poi tutte le modifiche possibili immaginabili le hanno trovate, per cui solo per quello, però c'è molto meglio l'8001 di quella serie lì. Era grande. Allora, io sto cercando di fare memoria come si chiamava il mio primo CB, il mio primo baracchino era un Midland e aveva il frontale cromato, rimaneva tipo una scatola di sardine e aveva 23 canali, se non mi ricordo male. Guarda, di queste cose è molto informato Giulio, che lui ha avuto centinaia di baracchini e ti dice tutte le informazioni. Io non è che sia molto aggiornato, perché ripeto, sono entrato dal 2004, anche se da piccolino mi piaceva ascoltare, però non ho mai avuto baracchini, avevo di quei walkie talkie, due canali eccetera, però Giulio sui baracchini è molto informato. Allora, io sono entrato in frequenza nel 1995. Si modulava solo la notte, dovevi lanterna fuori e modularvi. C'era una casciara allucinante, un macello vero, tutti pirati. Anch'io nel 95. Questo è un pirata mio, Eugenio, uno di quei pirati di Porto Torre, ce li hanno tutti quanti beccati. No, io ho la concessione, io a casa ho la concessione del baracchino. Nel 95 modulavo su 12, quello sì, però io sono fatto nel 95. Allora poi dopo, mi ricordo, in Porto Torres c'era tutta la combriccola al canale 12. E adesso a me i nomi mi sfuggono, però mi ricordo in particolare un Piero Alga. Nulla ti dice Eugenio. Piero Alga? Ha voglia. Piero Alga, cioè lo vedo tuttora, se l'ha levato, abita vicino a Sorso adesso abita. L'altro giorno mi ha proprio detto che ha intenzione di ripiattarsi tutto. Piero Alga, io avevo la voce così. Positivo. Sembra l'altro giorno, ma gli anni passano, cavolo, siamo nel 2021. Nel 95 ero un ragazzino, era vero, e c'avevo questa passione che l'ho sempre avuta, però a smalti sono mancato un paio d'anni, perché sono andato a vivere in paese, non potevo piazzare niente, quello, quell'altro, per una cosa, però l'ho sempre tenuto a cuore le cose della radio. Adesso mi è tornato partito l'embo e niente. E sono contento, sinceramente, riprendilo. Ma c'è qualcuno in casa, Eugenio, e anche a te, che aveva il baracchino? No, allora, no, ti spiego, mio padre, un maresciallo dell'aeronautica, ed era in telecomunicazioni, perché mia madre andava a prenderla. E mi ha inculcato questa cosa da piccolino, roba di telecomunicazioni. Sì, è una bella passione, dai. Meglio lì se avessi detto di passione strana, dai. Ok, invece tu hai detto, Eugenio, niente, te l'hai fatta venire tu da piccolino. Io vedevo mio padre con il VHF al lavoro, dai, diciamo, perché quando era imbarcato molte volte, quando tornava a casa molte volte c'era il VHF di bordo. E niente, mi veniva, ci volevo sempre parlare da bambino. E poi piano piano crescendo ho questo baracchino. Robert, dimmi, salve. Vengo per me un attimo che c'è andato a prendere la mia madre, che abita vicino a casa mia, che sta venendo a prendere a casa, e mi ha sentito un attimino. Comunque adesso stavo toccando dietro il dissipatore, non sta scaldando, nonostante che le stazionali non siano basse, però non sta scaldando. Dai, 5 minuti per me, a dopo. Sì, ok, non ti preoccupare. No, ma le stazionali ti devi preoccupare, salve, molto tutto comunque. Quando le stazionali sono alte, se c'è un baracchino ce l'hai anche a 2, il rientro sono pochi, sono 300 milliwatt di cosa, un baracchino a 4 watt per quell'apparato, ma se cacchio inizi ad attaccare un lineare e la potenza si moltiplica, se ti rientrano 2 watt sul baracchino ti fanno danno, quindi bisogna stare attenti. Se superi il 2, col baracchino non succede niente, almeno non è niente di grave, però con una, se c'è un lineare a vedere se succede qualcosa. Poi sempre quando ce le hai, più basse sono è meglio, sempre vicino all'1 il più possibile, così sei sicuro. Eh beh certo, dai, poi come rientro ti devo chiedere una informazione. Lo strumento che io non trovo, il mio, della CTE, che a sinistra c'è il wattometro e a destra c'è il nosmetro, nel fianco attacchi un antenino piccolino. Adesso mi sto cervellando per ricordarmi a che cosa serviva. Quello era l'analizzatore, cosa cavolo era? L'antennino che tu lo mettevi nel fianco, non c'è bisogno neanche di collegarlo lo strumento con il cavetto e cose, lo lasci così, perché cosa era? Allora, è una specie di misuratore di campo, come ti avvini, ti avvicini ti dà il segnale, ma una cosa così a livello ottico non ha nessun valore effettivo. Ah ok, positivo, dai, 5 minuti di bianco per me, riprendete, riprendi così. Capito, vabbè, è quello che gli avevo fatto prima a voi. Poi nel 95 l'avevo piazzato, ma nel 95 c'era un saccaccio di gente sul 12, era casino praticamente. E io andavo, che Claudio l'ha conosciuta, che ci andava anche lui, nella sede, noi avevamo la sede proprio di CB, c'avevamo una sede all'Arena Reda, ex Shell, un capannone grande, bello, dentro c'era il biliardino. Insomma era bello. Tipo oratorio, andavate a fare socialità, dai. Sì, ci si trovavano tutti lì. A Patatore ce ne sono ancora, ne vedo alcune di antenne in giro. E poi c'è un radioamatore vicino ai carabinieri, chi è quello lì? Quello è Luca. Luca Poldo. E ogni tanto entra, su 10 non entra, su 12. Non l'ho neanche più sentito. Ah lui, non sapevo fosse un radioamatore quello Luca, qualche volta ascoltandolo l'ho sentito così qualche sera di notte coricato con quella radiolina piccolina, parlo tempo fa, mi era capitato di ascoltarlo. Sì. Dove visto Luca scende giù, c'è lo stop, tirando dritto per quella del palazzo di fronte, ci abita Puglio. Eia, comunque insomma, e oggi se ti viene bene, se c'è qualche contatto di lì, mi fai sapere esattamente come si fa per avere la cosa, questa specie di nulla osta per usare il WHF marino portatile. Perché mi ha detto a fare tutto io, se, perché a un amico gliel'avevamo fatto, gliel'aveva fatto uno in capitaneria e gliela aveva fatta anche se non era di qua, gliel'aveva fatto lo stesso, tanto per andare a qualunque parte a fare. Detto, devi andare in capitaneria, presentarti e dire, è praticamente una denuncia che fai, no? Che sei in possesso di una barca e sei in possesso anche di un WHF marino. Sì, era così, però siccome sono cambiate le leggi, adesso per dire di cosa, di chiamavo la concessione, per il CB non c'è più necessità, per cui non paghi più il canone, eccetera, eccetera, da luglio del 2020. E non vorrei che fossero cambiate anche per i PMR, fossero cambiate anche queste leggi qua della nautica, che magari adesso per facilitare la burocrazia dicono non devi fare niente, devi avere soltanto un apparato omologato e utilizzarlo solo in operazione di soccorso. Vai in capitaneria e fai questa denuncia qua, non c'è, vai tranquillo, non è per il WHF marino non è cambiato niente. Noi ogni anno dobbiamo rinnovare i patentini. Addirittura, perché durano un anno quei patentini? Sì, ogni anno dobbiamo andare e ci timbrano il patentino. Vabbè, ma tu c'hai un altro tipo di patentino per uso civile, non è uso coso marino? No, non è il nostro uso lavoro, no? Cioè, comunque sono WHF marini, cioè non cambia niente. Lunedì faccio chiamare a un amico, mi faccio dare il numero di telefono, chiamo io di lì in capitaneria, glielo chiedo, no, perché a portatore se non ci voglio scendere, ricca, se devi andare. Vabbè, chiama direttamente in capitaneria e lì ci ascolti, io sono in possesso di questa barca qua, e sono in possesso di un WHF marino, come mi devo comportare? Ti conto loro. Faccio così che è più semplice, dai. Ok, io rimango un attimino in quel Rix, oggi che sto facendo roba, ci sentiamo tra qualche minuto. Sì, fai, anche io sto facendo roba qua, ci sentiamo dopo, ciao.